Italia. Miti e verità dello sport di Dario Ricci. Io che un tempo fui uno dei migliori, uno che vinse tanto, tutto o quasi. Io che per sempre fui sconfitto Olimpia. Per questo parto, per chiedere ai miei antenati qual è il valore della vittoria e quello della sconfitta. Ma parto soprattutto per raccontare a tutti voi un'antica storia, di cui tutti sentimmo parlare, ma di cui tutti in realtà non sappiamo un bel nulla. Beh, la voce che avete sentito e che ha aperto questa puntata di Olimpia è quella di un campione, ma anche di un personaggio che dal parquet a cinque cerchi è entrato nella storia ed ora s'avventura in un viaggio per tornare alle origini del mito di Olimpia. Il suo nome sul palcoscenico è Zorkos, ma nella storia di Olimpia non può essere altro che Andrea Zorzi. Benvenuto oggi a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie mille. Smetto i panni dell'attore, quello un po' importante, torno a quelli che amo di più della semplicità. Sì, è così, in questo secondo spettacolo, avventuroso viaggio a Olimpia, questa è la spiegazione di perché io e Beazia, maga, dea e attrice, partiamo alla ricerca di Olimpia, delle vecchie Olimpiadi. Perché è una storia di cui tutti sentiamo parlare, ma con un sacco di storie nuove. La prima, la lunghezza, 293 edizioni ogni 4 anni, 1180 anni, da 776 avanti Cristo fino a 393 dopo Cristo, un'infinità. Già la lunghezza per me fu una grande sorpresa. È straordinario il viaggio che compi tornando sul palcoscenico, a dimostrazione che non si è campioni solamente sul parquet o inseguendo quelle medaglie, quei trionfi che pure hanno arricchito tutti, tranne quell'oro olimpico, la tua straordinaria carriera, ma le sfide si accettano anche sotto altri panni, sotto altri vesti, e in questo caso sei un po' nei panni di Zorkos, un Ulisse che viaggia verso le origini del mito, aiutando a svelare anche tanti dei falsi convincimenti che abbiamo intorno alle Olimpiadi, no? Partiamo subito, questi qua gareggiavano nudi. Nudissimi, infatti gymnos, che è origine di ginnasta, significa gareggiare nudi. Gareggiavano per 5 giorni, intorno a fine luglio, inizio agosto. Non erano molte le gare, si iniziava con la corsa delle quadrighe, poi c'era la corsa del pentathlon, anzi il pentathlon che era fatto poi tra l'altro di disco, giavellotto e salto in lungo. Se nessuno vinceva tutte e tre le gare, si facevano lotta e corsa come spareggio. Poi arrivavano gli sport di lotta, che erano il pancrazio, la lotta e il pugilato, e si chiudeva poi con le tre corse, il diavolo, il dolico e la corsa più veloce, i 100 metri, che era quella che era la gara più importante dell'antica Olimpiade. Presti fisico e voce a Zorkos, che sul palcoscenico rivive questi miti. Un altro che me ne viene in mente, che crediamo affondi in chissà quale origine, ma che invece è modernissimo, la famosa staffetta olimpica, no? Che parte da Olimpia per arrivare nella città ospitante. I greci non sapevano neanche cos'era. Ma sono tante le cose, i cinque cerchi non c'erano, anzi, la stessa lampadrodromia, quindi la corsa con lampade, era una cerimonia religiosa che c'era in quegli anni, ma nulla aveva a che fare con Olimpia. Tra l'altro Olimpia non è una città, è solo un luogo di culto. Infatti la parte, secondo me, più interessante è questa, che ogni 4 anni a Olimpia c'era la più importante festa sportiva, non c'è dubbio, la più importante festa religiosa dedicati a Zeus, i giochi olimpici, e anche la festa pagana più bella del mondo. Quindi tre grandi manifestazioni in una sola, e per, dicevo, 1180 anni non è mai mancata questa regolarità del colpo, a parte un anno quando Nerone sempre lui, andò lì e fece sposare di 2 anni le edizioni olimpiche, vinse tutto, corrompendo tra l'altro i giudici, ma poi l'anno dopo finì male e quindi venne tolto il suo nome dai vincitori. Queste sono un po' le storie, ripeto, che anch'io con grande piacere ho scoperto nello studiare insieme con Nicola Zavagli, regista e autore dello spettacolo, per prepararci a questa nuova opera teatrale. Giochi banditi alle donne, no? Totalmente, non potevano neanche entrare in città, non solo gareggiare. In realtà è accaduto poi col corso del tempo che le donne potevano essere proprietarie dei cavalli, e quindi in quanto proprietari potevano ricevere la corona di ulivo, che era il simbolo della vittoria, ma non potevano gareggiare perché solo Sparta in quegli anni era la città nella quale le donne potevano fare sport, ma non tanto per un femminismo, ma perché devono essere forti fisicamente per far nascere atleti superdotati, grandi soldati. Sono tantissimi i miti che svelate in questo viaggio verso Olimpia, donne che tra l'altro troveranno il loro spazio olimpico solamente nel 1900 e anche malgrado l'opposizione dello stesso De Coubertin, che per essere fedele, no, al mito originario le avrebbe tenute volentieri fuori dalle gare, se non sbaglio. È assolutamente così. In realtà il De Coubertin, il barone De Coubertin, è poco fedele ai giochi antichi, perché lui ne ha inventati tanti di miti. Tra l'altro non c'è una parola in greco che possa definire gli amatori, i dilettanti. C'era solo idiotes, che significa non professionisti, che non sanno. Quindi nell'antica Grecia c'era questa grande attenzione al corpo. Nel ginnasio si insegnava sport, lotta, pugilato, musica, danza, filosofia, storia, e lì si allenava il corpo e la mente insieme, la cosiddetta paideia di quel tempo, teorizzata da Platone, da Aristotele. Però quando si gareggiava solo il primo contava. C'era la corona per chi vinceva e niente altro per il secondo, per il terzo, per il quarto, quindi una competitività assoluta che viene tradita totalmente da De Coubertin, che invece inizia a immaginare una gara fatta di amatori, non professionisti, e poi si introducono medaglie d'argento, di bronzo e via dicendo. Quindi una sorta di travisamento legato anche alla civiltà vittoriana di quegli anni, dell'antica, di quel periodo, che in qualche modo voleva un ambiente un po' meno competitivo rispetto all'antica Grecia. Di giorno si gareggiava e di notte questi atleti che combinavano? Mangiavano, bevevano, si divertivano moltissimo. Era vietato l'ingresso alle donne a Olimpia e quindi dovevano stare accampate al di fuori del fiume Alfeo, che è questo fiume che circondava l'Olimpia. C'erano però le pornai, che sono le prostitute, che potevano entrare ed erano un ruolo importante non per gli atleti, che effettivamente erano un po' più attenti, ma per tutti questi 40 o 50.000 tifosi che partivano da ogni luogo del Mediterraneo per andare a vedere i giochi olimpici. Era un po' una specie di pellegrinaggio, perché per davvero lì si vedeva lo sport, ma si andava anche a rendere omaggio a Zeus e a sentire i grandi filosofi, a sentire i più importanti filosofi, e quindi un momento straordinario nella vita della Grecia antica. Anche quella della tregua olimpica, correggimi se sbaglio, è un mito che è cresciuto un po' con gli anni, perché in realtà non era poi così effettiva, no? Durante il periodo delle Olimpiadi. Allora, anche qui, Echecheria è il nome dell'antica tregua olimpica ed era pensata per permettere ai viaggiatori che andavano a Olimpia a vedere i giochi antichi di muoversi tranquillamente, senza trovare pirati. Effettivamente funzionò, ma funzionò in un paese come la Grecia, con 1.000 città-stato sempre in guerra tra loro, dove c'erano faide continuamente. Effettivamente ci fu un solo caso nel quale il territorio di Olimpia venne attaccato da un esercito. Per il resto funzionò abbastanza. Certo, noi l'abbiamo mitizzata. Senti, a un certo punto, nell'avventuroso viaggio a Olimpia appare in scena un milanese e ci toglie l'Olimpiade. La chiude. Nel 393 d.C. accade che l'imperatore Teodosio si era un po' arrabbiato con i greci di Salonicco perché avevano ucciso un rappresentante dell'impero romano. Si arrabbiò molto e fece organizzare una gara di quadrighe. E 15.000 greci andarono allo stadio per vedere questa gara. Lui fece chiudere le porte e li trucidò tutti, che, voglio dire, come vendetta è un po' cruenta. Sant'Ambrogio, che era solo Ambrogio, il vescovo di Milano, disse: Teodosio, non si fa così, ti scomunico e ne parliamo tra un po'. E Teodosio rimase un po' sulle sue per un po' di tempo, poi dopo 6 mesi chiese perdono, poté comunicarsi nuovamente. Ma Sant'Ambrogio gli chiese l'editto di Teodosio, che significava porre fine a tutte queste pratiche pagane, all'interno delle quali finirono anche le Olimpiadi, che quindi non furono più disputate. Non era che il vescovo Ambrogio volesse chiudere le Olimpiadi, ma le Olimpiadi finirono all'interno di questo editto che pone fine a tante pratiche pagane di quel periodo. Beh, Zorkos Andrea Zorzi, adesso ci prendiamo un istante di pausa, poi parliamo anche dello Zorkos e della sua carriera sul parquet a cinque cerchi. Roma Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora insieme qui a Olimpia con Andrea Zorzi, che oggi veste eccezionalmente per noi i panni di Zorkos, colui che nello spettacolo teatrale L'avventuroso viaggio a Olimpia ci riconduce per mano ai miti delle Olimpiadi. Manca davvero poco a Rio 2016, questo mito andrà a rinnovarsi ed è davvero spettacolare poterlo rivivere e riscoprire insieme ad un Ulisse d'eccezione, no Andrea? Per me è un'esperienza veramente unica, secondo spettacolo, ancora una volta in scena con Beatrice Visibelli, che vi dicevo, lei è Beazia, questa dea maga attrice che mi accompagna in questo lunghissimo viaggio. Novità, sono due ballerini di Accademia Cataclò, e la cosa bella è che non si tratta di avere danza e narrazione che si alternano, ma è un tessuto in cui mai nessuno esce. I ballerini, devo dire, veramente bravissimi, sono a volte scenografie, a volte compagni di viaggio, a volte ballerini meravigliosi, e quindi anche per noi è stato veramente molto interessante vedere come la parola e la danza possono sposarsi insieme. Un'esperienza molto nuova. Nicola Zavagli, in questo caso, e Giulia Staccioli sono occupati del copione e anche delle coreografie, creando qualcosa di, devo dire, molto originale e molto affascinante. Vedere i nostri ballerini, Sara e Matteo, che diventano le statue di Olimpia, che diventano il più grande tempio, è veramente una cosa molto emozionante. Senti, nei panni dell'attore ormai ti trovi sempre meglio? Beh, questo è un passaggio molto diverso. Nel primo spettacolo, La leggenda del pallavolista volante, io raccontavo me stesso. Certo, lo Zorro piccolino, lo Zorro più o meno adulto, lo Zorro grande. Qui c'è solo questo inizio in cui racconto perché viaggiamo, poi divento un narratore, divento il Milone di Crotone. Perché noi si parte poi, tra l'altro, da Milone, che è la patria di questo... Si parte da Crotone, patria di Milone, che vinse 7 Olimpiadi consecutive. E quindi il Milone che io però in qualche modo interpreto al Veneto. Quindi diventa un Milone Veneto. Faccio una battuta in Veneto del tuo Milone, va. Perché Milone, come è morto Milone? A ieri drio camminare dentro un bosco. Ego voisto spaccare un tronco secco e tac, e il tronco non si ga spacca, e il mega blocca e ma. E così morì Milone, bloccato con questo tronco, mangiato dai lupi. E io che ho visto anche la faccia di Zorkos, Andrea Zorzi, vi suggerisco, andatela a vedere a teatro, perché vale davvero il prezzo del biglietto. Andrea, c'è tanto di te però anche della tua carriera in questa storia, perché questo inseguimento del mito va di pari passo con l'inseguimento di quell'oro di Olimpia che a te in carriera, così come a quella straordinaria squadra allenata da Julio Velasco, è sfuggito quando siete stati veramente a un passo. Ecco, se ti dico Olanda, cosa pensi? Riesci a tutt'oggi a dormirci sopra? Sì, adesso sì, a 50 anni ci dormo sopra. Per un po' di tempo ho fatto un po' più di fatica, per un po' di tempo avrei tirato volentieri la medaglia d'argento contro il muro, anche se sul piano personale è più dolorosa la sconfitta di Barcellona 4 anni prima, in quarti di finale sempre contro l'Olanda, perché abbiamo giocato male con le Olimpiadi. Ad Atlanta invece si perse in finale, 18-16, quinto set, una meravigliosa partita, anche se persa. Quindi sul piano sportivo uno è molto dispiaciuto perché è arrivato a pochissimo dall'oro, però personalmente ero un po' più tranquillo. Devo dirti che adesso, a tanti anni di distanza, è diventata un po' il centro attorno al quale la nostra identità come gruppo si è formata. A me fa piacere ancora, lo dico paradossalmente, che spesso mi dicono: avete vinto tanto, tutto, a parte le Olimpiadi, ma non lo dicono come un'accusa. Lo dicono con la partecipazione di chi si ricorda perfettamente dov'era, che cosa faceva in quell'agosto del 96, e forse questa imperfezione è anche un'occasione che così ci ha permesso di entrare un po' nel cuore della gente. Il sottoscritto stava riaccompagnando la nonna da un viaggio nella natia Ascoli Piceno. Partimmo che la gara era appena iniziata, tornammo a Roma per vederci proprio l'ultimo set. Hai confessato la tua età, più di 35 anni, diciamo, sì, così. Sì, beh, insomma, ecco, questo è il prossimo mito che dovremo svelare qui a Olimpia. Ma tornando a parlare di te, forse quell'imperfezione va reso più umani. Se aveste vinto tutte sareste stati un po' banali, dai, concedimi la provocazione. Diciamo anche a rischio, è chiaro, occorre distinguere un gruppo molto compatto in campo, ma anche molto diverso, con personalità radicalmente diverse. Andrea Lucchetta, Lorenzo Bernardi, Paolo Toffoli, Cantagalli, siamo persone che hanno una grande amicizia ancora, ma non siamo uguali per nulla, quindi chissà cosa sarebbe accaduto alle varie personalità. Io personalmente posso dirvi che quella sconfitta mi ha tenuto un po' a bada, avendo certo corso il rischio di essere un po' troppo individualista, di montarmi un po' la testa. Forse questo mi ha tenuto un po' schiscio, dire sta buono, bravo, complimenti, però non esagerare. Quindi penso che abbia avuto anche un ruolo personalmente molto importante, e forse quella scintilla che mi ha permesso anche di fare esperienze diverse. Quindi ripeto, adesso a 50 anni non guardo con tanto dispiacere a quelle Olimpiadi, certo una parte importante della nostra vita, negativa, ancora dolorosa, però penso sia stato un segnale molto importante. E come capita a quest'età si inizia a essere un po' più indulgenti col passato e si guarda anche al messaggio che arriva. Chissà qual era l'opportunità che ci ha offerto questa sconfitta olimpica. Forse non sarei qui a fare l'attore, forse non sarei qui a fare il giornalista o provare a fare altre tante cose se avessimo vinto anche quell'oro. Che sensazione ti dà un campione che magari una finale di quell'importanza la perde e quella medaglia d'argento magari la butta via senza neanche mettersela al collo? È un atteggiamento legittimo per un professionista? È talmente individuale la situazione che ognuno deve fare quello che si sente? Allora, bisognerebbe stare nelle scarpe degli altri, come direbbero gli inglesi, e io sto nelle mie a malapena. Però credo che molti comportamenti degli sportivi e degli uomini pubblici debbano essere un po' definiti in precedenza. Alcune cose non si possono fare o non si potrebbero fare. Poi accadono alcuni errori. Io ricordo una volta attraversai la rete per litigare con i cubani e non si deve fare. Persi letteralmente la testa e non vorrei essere condannato vita natura durante per un errore che ho fatto. Però penso che buttare via la medaglia sia comunque un errore, perché in quel caso significa tradire il significato profondo dello sport, tradire anche il rapporto con gli avversari, perché quello mi sembra il minimo. Vai sul podio, magari sei arrabbiatissimo, però in quel momento metti la faccia dello sportivo, dell'atleta che accetta la sconfitta e sta buono. Certo, nel cuor tuo pensi a tutt'altro, sei arrabbiato, ma devi partecipare a quel rito fino in fondo. Quindi, se possibile, inviterei qualunque atleta a sapere che in alcuni momenti si salutano gli avversari, qualunque sia la tua emozione, se riesci a tenere a bada le parti più negative è comunque una bella sfida. Qualche volta non ci riesci, ma almeno non diamoci ragione quando commettiamo un errore. Oggi Zorkos, nel suo viaggio verso il mito originario di Olimpia, rischia, concedimi la battutaccia, di perdersi per mare, perché quel mito è offuscato da tanti dubbi, no? Il gigantismo camminato il movimento olimpico, il dramma del doping, perché ogni giorno la cronaca sovrasta proprio il mito. Ecco, non è questo un viaggio anche a recuperare in fondo quello che c'è di buono e che non può essere messo in discussione di quei cinque cerchi? Sì, non si può però prendere Olimpia così com'è, perché lì c'è il giuramento sotto la statua di Zeus in cui gli atleti giuravano di non usare pozioni magiche, di non imbrogliare, niente sortilegi per vincere. Quindi in realtà anche nell'antica Grecia il tentativo di imbrogliare era presente. Quindi questa è una costante nell'umanità. Almeno non diamoci ragione. Questo mi pare il tentativo migliore per tutti noi. Il doping è sicuramente barare. Capisco che in alcune situazioni, in alcune discipline soprattutto, è difficilissimo resistere, perché ci sono alcuni medicinali che ti fanno andare più forte e ti fanno diventare quasi vincente. In altri sport è più complicato, ma al di là di questa differenza da discipline, l'idea è che se siamo i primi a non rispettare le regole, che sono la base stessa dello sport, è perché lo sport è un po' speciale, non per tante ragioni, perché è perfettamente regolamentato. Se non accetti quelle regole, di fatto non stai giocando. È davvero questa la chiave più importante dello sport, quello che tu, quando inizi a giocare a qualunque sport, ti sei messo d'accordo con i tuoi compagni, con i tuoi avversari, di accettare alcune regole. Se non lo fai, anche per il doping, significa che stai tradendo ciò che tu stai facendo in quel momento. Questo mi sembrerebbe l'unica possibilità. Non credo ci siano altre leggi o altre modalità per bloccare il doping. È una scelta personale, ma in quanto tale dovremmo ripensarlo un po', perché come tutte le questioni etiche sono fondamentali, ma sono anche parte di una scelta personale. E allora, a noi non resta che augurare buon vento a Zorkos e ringraziare soprattutto Andrea Zorzi per essere stato oggi nostro ospite. Beh, i palcoscenici di tutta Italia già ti stanno ospitando, ma sappi che il palcoscenico di Olimpia ti aspetta nuovamente qui ogni volta che tu lo vorrai. Grazie mille, grazie a tutti voi, un in bocca al lupo e a prestissimo. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.